Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ma eccoci insieme finalmente, vi stavo aspettando. Intanto buongiorno da Nicoletta Carbone, abbiamo in regia la parte tecnica Filippa Oreggi, in redazione Laura Vanossi. Oggi, cari amici, sono le 11:10, affrontiamo la settimana di petto, o meglio, non proprio di petto, di pancia. Parliamo di lei e di un disturbo che, essendo molto frequente, viene utilizzato da alcuni un po' come scusa. Avete già capito, perché forse siete proprio tra quelli che dicono non sono grasso, sono gonfio. Ma guardiamo in faccia la realtà, o meglio, guardiamo la nostra pancia. Cambia durante la giornata? Ma oggi, oltre ad osservarla, proviamo anche ad ascoltarla, perché potrebbe dirci delle cose interessanti. Il viaggio che vi propongo ci farà incontrare tanti specialisti e ciascuno di loro ci aiuterà a scegliere bene per il nostro benessere. Al nostro primo esperto chiedo subito di aiutarci a capire se la nostra pancia è gonfia o solo resa più morbida da qualche chiletto, no? Può anche essere gradevole. So che però ad alcuni la verità brucia, ma io dico meglio non nasconderci dietro un dito. Lo chiedo subito al professor Antonio Gasbarrini, che è professore associato di medicina interna all'Università Cattolica Sacro Cuore, Policlinico Gemelli di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa è una domanda un po'. Allora, gonfio o ciccio? Beh, diciamo che... Non lo dico a lei, eh? Diciamo che dopo il periodo estivo è una problematica che si può incontrare. E innanzitutto diciamo che quello che uno può osservare è che la pancia aumenta. La metodica più semplice è mettersi su una bilancia. Ovviamente se la bilancia non ci inganna, se il peso è aumentato, ovviamente è dovuto al fatto che forse abbiamo esagerato un po' durante l'estate. Un'altra cosa che invece spesso capita è la pancia gonfia, cioè uno deve sbottonarsi un pochino la cinta dei pantaloni, si trova più gonfio, ma nella realtà dei fatti quello che vede è che la mattina comincia con una bella pancia piatta, si sveglia, si vede nello specchio e durante la giornata questa pancia aumenta progressivamente e soprattutto dopo i pasti aumenta ancora più di volume. In quel caso ovviamente non è ciccia, è una problematica legata alla produzione di gas, al cosiddetto meteorismo. 800 24 00 24. Ma professore, sono gonfio o mi sento gonfio? Perché tra noi donne il problema del gonfiore addominale è molto diffuso. Io ho amiche che mi dicono: ho una pancia, Nico, così gonfia. Io le vedo, le guardo e vedo che hanno una pancia piatta come una tavola. Allora io mi chiedo sempre, sono in cerca di complimenti, non sanno cosa dicono, è il solito giochino delle magrette? Oppure, professore, si può avvertire una sensazione di gonfiore anche se la pancia non ne dà traccia? Beh sì, in qualche modo sì. Voi sapete che tutti i nostri, le nostre sensazioni sono determinate dalla nostra sensibilità. Esiste la cosiddetta sensibilità viscerale, cioè degli organi, e l'intestino è appunto questo. Quindi se l'intestino diventa molto sensibile, si ha una ipersensibilità viscerale che può essere data da tante cause, uno può avere una sensazione di gonfiore anche se poi a vedersi la pancia non è particolarmente gonfia. Professore, se la pancia, abbiamo parlato di donne, se la pancia fosse una persona, lei come la descriverebbe? Beh, è interessante, diciamo che sicuramente può essere definita lunatica perché varia nel corso della giornata e nel corso del tempo. È sicuramente molto sensibile perché è molto sensibile a quello che noi mangiamo, al cibo che mangiamo. E non c'è dubbio che è intelligente, perché calcolate che all'interno della nostra pancia c'è l'apparato digerente, che è probabilmente la più complessa delle strutture del nostro organismo, perché deve decidere tutto quello che assorbe in quello che noi mangiamo, proteggendoci però dalle infezioni presenti nel cibo. Per cui ciò sicuramente ha delle doti enormi e tra esse sensibilità, intelligenza, lunaticità. Professore, mi trovo assolutamente d'accordo, perché la pancia, lo sappiamo tutti, è condizionata dalle nostre emozioni. Sarebbe interessante capire se e quanto il nostro gonfiore è pilotato dal cervello, ma non ci sono test, indagini, indizi che possono aiutarci a capirlo? Allora, una risposta di questo genere me la può dare sicuramente il professor Giovanni Addolorato, che è specialista in medicina interna, ricercatore e dirigente medico presso l'Università Cattolica di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che ci dice allora di questa, delle emozioni che in qualche modo fanno modificare, no, il volume della nostra pancia o ci danno quella sensazione di gonfiore? C'è una correlazione netta dai risultati di molte ricerche scientifiche. Ormai sembra certa una correlazione tra l'intestino, diciamo, irritabile o, per meglio dire, irritato, quindi il gonfiore addominale, stipsi, diarrea, e le situazioni di stress psicologico, in particolare ansia e depressione. È stato dimostrato in diversi studi che lo stress può alterare la motilità del tratto gastrointestinale, in particolare del colon. Lo stress sappiamo tutti da cosa può essere causato da elementi ambientali come per esempio ritmi di lavoro incalzanti, tensioni in famiglia oppure eventi che noi non riusciamo a controllare. Questi possono condizionare l'umore e si può tradurre a livello intestinale con il gonfiore addominale oppure con stitichezza o diarrea. Infatti è noto che non appena la tensione cala di colpo, per esempio come ci può essere in alcuni momenti in cui siamo lontani dagli impegni lavorativi, come nel weekend o nei periodi di vacanza, molti pazienti ci riferiscono che la sintomatologia si attenua notevolmente e che l'intestino risenta delle nostre emozioni è una cosa nota e che tutti noi abbiamo sperimentato. Chi non ha sentito un amico che diceva che in risposta per esempio a stimoli come forti emozioni manifesta, sviluppa alterazioni intestinali come il gonfiore oppure episodi diarroici? È molto comune per esempio negli studenti che vengono a fare gli esami oppure quando dobbiamo affrontare un discorso in pubblico e ne abbiamo timore. A tale proposito, un recente studio che abbiamo effettuato proprio come gruppo, ed è durato tanto tempo perché è durato 8 anni, in questi 8 anni abbiamo valutato un numero molto alto di pazienti, circa 1700 pazienti affetti da patologie gastrointestinali che sono venuti al nostro ambulatorio di medicina interna. Riguardo ai test che lei mi diceva, li abbiamo valutati proprio con questi test. Sono test psicometrici specifici che permettono di valutare l'ansia, sia quella reattiva, ma anche quella presente come tratto caratteriale, la depressione. E questo studio ha dimostrato che tali alterazioni psicometriche erano molto molto alte nei pazienti, circa 80% l'ansia di stato, 60% l'ansia di tratto, 30% la depressione. Tenga presente che queste percentuali sono molto più alte di quelle che si riscontrano in studi epidemiologici nei soggetti sani. Noi sappiamo che l'ansia è presente circa il 10% della popolazione generale e la depressione nel 4%. Questo dato indica che molti dei pazienti che si rivolgono al medico per problemi gastrointestinali possono avere un associato disturbo del tono dell'umore. Questo può essere un cofattore o un fattore preponderante. C'è da dire che l'ansia e la depressione, come rilevato in diversi studi, è in grado di determinare un'incrementata percezione dei sintomi gastrointestinali, in particolare del dolore e del gonfiore. È proprio questa incrementata percezione che predispone il paziente a focalizzare la propria attenzione su questi disturbi, a eseguire diverse visite mediche, esami ematologici, strumentali e quant'altro. Noi donne abbiamo con la nostra pancia, alcune indagini l'hanno proprio evidenziato, un rapporto molto particolare. Ci sono proprio donne che nella loro pancia non si sentono a proprio agio, diventa proprio un complesso, un chiodo fisso, un disturbo molto fastidioso, professor Addolorato. Certo, bisogna tenere presente che la prevalenza e l'incidenza sia dei disturbi intestinali sia dei disturbi del tono dell'umore è maggiore nelle donne. E questo dato è stato anche confermato dal nostro studio. Spesso amo dire che le donne sono molto più sensibili di noi maschi, insomma. È stato ipotizzato che potesse essere secondario a disturbi ormonali, ad alterazioni ormonali proprio delle donne, ma in realtà la predilezione di questi disturbi per il sesso femminile non sembra essere in relazione con le caratteristiche ormonali. È invece verosimile che la maggior parte delle donne hanno una maggiore pressione sociale, questo per vari livelli, per esempio per una minore autonomia economica o per maggiori obblighi familiari e lavorativi che spesso associano, e questi possono causare conflitti psicologici che si riflettono poi in un'alterazione della funzione dell'apparato gastrointestinale. Inoltre è assolutamente importante anche considerare che diversi studi, e questo appare molto interessante. Diversi studi hanno riportato una correlazione fra i disturbi cronici gastrointestinali e la violenza fisica o sessuale. In particolare nelle donne e nei bambini accade questo, e è importante considerare che la violenza, intesa come un evento traumatico, è in grado di modificare lo stato psicologico della donna o del bambino, certo. E questo può determinare un disturbo psicologico e l'incapacità poi di rispondere a eventi stressanti della vita. Professor Gasbarrini, allora abbiamo visto quanto sicuramente lo stress, l'ansia incidano su questo disturbo. Ci sono però anche delle nostre abitudini che possono, magari noi non ce ne rendiamo conto, essere uno dei fattori che provoca questo disturbo. Banalmente, noi non ci pensiamo con attenzione, ma nel momento in cui mastichiamo, noi non solo trituriamo ciò che mettiamo in bocca, ma, professor Gasbarrini, introduciamo, soprattutto se mastichiamo rapidamente con grande velocità, introduciamo aria. Possiamo mettere una masticazione non adeguata, non corretta, come uno dei fattori che possono provocare questo gonfiore addominale o la sensazione di avere la pancia gonfia e tesa? Partiamo sempre da un presupposto: nel nostro intestino si produce continuamente aria e l'aria poi viene eliminata attraverso varie vie, ma una delle vie ad esempio anche attraverso la respirazione viene assorbita ed eliminata. E l'aria è fondamentalmente un processo che ha a che fare con la fermentazione che i batteri determinano in quello che noi mangiamo, quindi è ovvio che se noi mangiamo alimenti non perfettamente masticati, che poi in qualche modo poi quella masticazione precede la digestione gastrica e dell'apparato digerente, è ovvio che in qualche modo possiamo facilitare anche, diciamo, possiamo rendere più difficoltoso il processo della digestione e possiamo anche aumentare la produzione d'aria. Però dobbiamo stare anche attenti, però, perché spesso, quindi sempre collegandoci allo stato d'ansia, alla difficoltà, che molte volte quando uno è ansioso in una fase difficile può mangiare anche male. Può mangiare alimenti magari più gratificanti dal punto di vista mentale, però che sono poi dal punto di vista nutrizionale meno buoni. Purtroppo a volte quando uno è in difficoltà può magari assumere il numero di caffè, può prendere bevande alcoliche e può mangiare molti snack che non sono il massimo dal punto di vista nutrizionale, quindi spesso si correla un'alimentazione che non diventa più adeguata. Quindi è ovvio che il cocktail incredibile è mettere insieme momento di stress, alimentazione poco adeguata. E poi se questo avviene, penso alle donne nella fase postmenopausale, dove ci sono tanti sbalzi ormonali che noi sappiamo che controllano la motilità intestinale, gli enzimi intestinali, tutto questo poi può esitare in quella sensazione molto fastidiosa che è il gonfiore, il meteorismo postprandiale, cioè dopo che si è mangiato la pancia si gonfia, uno deve slacciarsi la cintura, non sta più bene. Ecco, mi sembra che sia importante chiedere ai nostri ascoltatori: avvertite questo disturbo? Fateci sapere quando diventa particolarmente fastidioso, quando potete dire ho la pancia gonfia. Il professor Gasbarrini citava appunto il momento che segue il pranzo. Io andrei a Milano, c'è Domenico all'800 24 00 24. Buongiorno Domenico, benvenuto. Sì, buongiorno. Io volevo proprio fare questa domanda perché molte volte mangio e mi rendo conto che finito di mangiare ho proprio questa sensazione di dover slacciare il bottone del pantalone perché mi sento gonfio, cosa che non ero così la mattina appena sveglio. E sì, mi capita ultimamente, sto notando questa cosa, se mastico velocemente. Allora volevo chiedere a lui se era solo una mia sensazione o è dato proprio dal fatto che mastico velocemente. Allora io chiederei al professor Addolorato un commento per Domenico, perché Domenico dice: mangio e ho proprio questa sensazione fastidiosa nel dopo pranzo, mentre a colazione al mattino, come citavamo all'inizio, la pancia sta bene, è bella, non voglio piatta. Dire piatta, però insomma è una pancina normale, ecco. Certo, ma innanzitutto bisognerebbe proprio considerare importante questo segno, cioè il fatto che il signore che ha parlato abbia la pancia piatta al mattino e il gonfiore addominale si presenta postprandiale. Bisogna considerare anche il tempo, però, perché se questo accade rapidamente, come diceva il collega, il professor Antonio Gasbarini prima, può essere secondario al fatto che ingerisce aria con i cibi se mastica velocemente, oppure se accade, diciamo, un po' lontano dai pasti, questo potrebbe essere secondario alla fermentazione dei cibi, alla alterata produzione di gas. Innanzitutto però bisogna sempre considerare il fatto che la prima cosa da escludere sono i sintomi d'allarme, quindi bisognerebbe chiedere al paziente se ha altri sintomi, come per esempio nell'ultimo periodo la perdita di peso, oppure se ha sangue nelle feci o, diciamo, altri sintomi d'allarme. Se sono presenti, chiaramente bisogna prima indagare le cause organiche. Se sono assenti questi sintomi, e i sintomi sono quelli, solo quelli che ha specificato il nostro Domenico da Milano, il collega, la persona da Milano, bisogna dire che in assenza di questi sintomi, se questi disturbi si presentano in concomitanza con situazioni stressanti, bisognerebbe chiedere che periodo sta passando, se è sotto una pressione lavorativa importante, se ha un ambiente familiare sereno, se recentemente ha avuto lutti, insomma tutta una serie di situazioni che vengono fuori dal colloquio, che deve essere condotto con tutta calma. Allora questo può far pensare a cause funzionali. Andiamo a Sergio, ci chiama da Rimini. Buongiorno Sergio. Buongiorno, io più o meno ho lo stesso problema. Dopo che ho mangiato, ma non subito, purtroppo mi si gonfia la pancia, mi tira terribilmente e mi dà molto fastidio. Voglio anche precisare che io purtroppo ho un lavoro che guido tanto, quindi sto molto a sedere. Sì, e questo sicuramente non aiuta, perché professor Gasbarini, voi suggerite sempre, poi chi ha tempo e chi ha voglia magari segue il vostro consiglio, dopo pranzo una passeggiatina aiuta. Perché, professore? Beh, diciamo che la nostra pancia ha davanti a essa i muscoli addominali, per cui non c'è dubbio che una passeggiata sicuramente migliora in qualche modo anche la motilità dei muscoli addominali, facilita il processo di contrazione e di motilità dell'intestino. Dato importante però, io ho captato dalla domanda di Sergio che poteva essere un uomo di mezza età, tra i 50 e i 60 anni, e qui bisogna molto, molto bene contestualizzare però chi abbiamo di fronte. Un uomo di questa età, ad esempio, è ad alto rischio di sviluppare una malattia molto comune come la malattia diverticolare del colon. Allora, i diverticoli del colon non sono una malattia di per sé pericolosa, eccetto, diciamo, quando si complicano, però i diverticoli del colon spesso non alterano la motilità, determinano una sovraccrescita batterica e alimenti che prima erano molto ben digeriti diventano meno digeribili, danno gonfiore postprandiale. Quindi va benissimo quello che abbiamo detto, il mangiare, il muoversi, il camminare, però contestualizziamolo su chi abbiamo di fronte, perché ci sono tante patologie comunissime che possono essere causa di gonfiore dopo mangiato. Quindi dobbiamo dargli un valore importante, pensare alla psiche, pensare a tutto, però pensiamo se possono essere in qualche modo legate a un disturbo che io devo dirvi probabilmente tipico dell'età. Ci sono delle forme di alterazioni anatomiche che non sono delle vere e proprie malattie, fanno parte del processo del sano invecchiamento e possono essere molto ben curate e i loro disturbi prevenuti. Allora, continua il nostro viaggio alla scoperta delle cause, ma soprattutto cercheremo anche di suggerirvi i rimedi per il gonfiore addominale, disturbo che abbiamo visto può avere molte cause. Il professor Gasbarini ha aggiunto un altro tassello, quindi io vi chiederei, diteci anche la vostra età, ma vedo che i miei esperti la colgono un po' dalla vostra voce. Siamo partiti dalla masticazione, abbiamo aggiunto il coinvolgimento emozionale, dello stress e dell'ansia, come appunto anche quello che mettiamo a tavola. Gli alimenti, sappiamo, sono molto importanti, e aggiungete anche voi da casa quelle che vi sembrano le cause reali o presunte del vostro gonfiore e noi come sempre le sottoporremo ai nostri esperti. Senta dottore, io non so come dirlo, però purtroppo da un po' di tempo soffro alla pancia, soffre di meteorismo? No, faccio le puzze di notte, non me ne accorgo nemmeno, ne faccio una dietro l'altra. Ah, appunto, lei soffre di aerofagia. Prenda due Cubadrin, due Geditol, due Zapanen, due Zombidan. Perché anche nei nomi delle medicine, la metà della parola delle medicine corrisponde al male. Due Lofadrin, due Puzzanal, due Scoraplus, due Lofadrin, chiaramente in compresse. Prende questo e vedrà che nel giro di pochi giorni, e poi ritorna per un controllo, va bene? Ed eccoci, siamo tornati insieme. Pancia gonfia oggi, parliamo di lei. È un disturbo molto frequente, spesso visto più come un fastidio proprio che come un problema di salute vero e proprio. Però i nostri esperti, professor Gasbarrini, ci avete detto attenzione ad alcuni sintomi in modo particolare che si possono associare a questo disturbo. Lì non bisogna abbassare la guardia, anzi è bene fare alcuni esami. Vogliamo ripeterli velocemente? Allora, sicuramente gli esami classici del sangue, non so ripetere però l'emocromo, vedere come sta il fegato, come sta la glicemia. L'esame più semplice di tutti è l'ecografia dell'addome, tra quelli strumentali, è un esame a basso costo, molto attendibile, che non espone a nessun rischio il paziente. Poi ci sono esami cosiddetti che noi gastroenterologi chiamiamo di secondo livello, e quindi ci sono gli esami del respiro, i cosiddetti breath test all'idrogeno, che dicono bene ad esempio se c'è un'intolleranza al lattosio, una contaminazione batterica, cioè una crescita dei batteri colici nell'intestino, grande causa di produzione di gas, e poi quando si sospettano patologie maggiori ci sono gli esami endoscopici che permettono di vedere bene il colon, di vedere bene lo stomaco, la parte alta dell'apparato digerente. E poi esami ancora più sofisticati, ma quello che è cruciale è non farsi autodiagnosi e consultare il medico, e farlo ancora di più se un qualche cosa che c'era sempre stato cambia, cioè un alvo di cui è sempre andato bene comincia di corpo a diventare stitico, diarroico o dolori addominali che prima non c'erano. Ecco, quando qualcosa cambia è importante parlarne con il medico. Prima di dare la parola a Benedetta che ci chiama da Ravenna, poi abbiamo Vito da Napoli, Alessio da Forlì, perché la nostra trasmissione oggi come sempre vuole dare anche degli strumenti per capire, non per fare autodiagnosi, ma per essere più così artefici della propria salute, del proprio benessere, quindi riducendo i fattori di rischio e tenendoli molto bassi, conoscere quelli che possono essere i sintomi sospetti, ma vogliamo anche suggerirvi dei rimedi. Io volevo chiedere al professor Addolorato un aspetto che me lo segnala Anna Maria via SMS. Se il gonfiore addominale è presente anche durante la notte, se in particolare disturba il sonno, è preoccupante. Professor Addolorato, Anna Maria ci segnala questo ulteriore dettaglio. Di solito quando si parla di gonfiore addominale si riferisce al momento che si manifesta di solito il gonfiore dopo i pasti, oppure insomma alla sera quando torniamo a casa carichi di tutte le tensioni. Anna Maria ci porta nel cuore della notte, si sveglia proprio per la pancia gonfia. Ha un significato preciso? Beh, bisognerebbe indagare sulla velocità di digestione, in altre parole è fondamentale indagare sulla modalità di digestione, se c'è una digestione lenta. Bisogna considerare che la digestione lenta, magari secondaria a un rallentamento del transito intestinale, è molto spesso riportata dai nostri pazienti. I nostri pazienti lo riportano come un senso di ripienezza dopo i pasti, oppure associato a sonnolenza dopo i pasti, e alcuni pazienti lo possono anche riportare durante la notte. In questo caso, come diceva il collega precedentemente, è opportuno rivolgersi al medico per fare alcuni test non invasivi come i breath test che sono stati nominati. Però bisogna considerare che è fondamentale capire dalla paziente che ci riporta questo l'ambiente in cui vive, lo stile di vita. Lo stile di vita può essere molto importante per il rallentamento del transito intestinale, soprattutto se la paziente per esempio ha una vita sedentaria o passa diverse ore ferma alla scrivania. La sedentarietà, come già detto prima, deve essere combattuta, anche se non magari con delle faticose sedute in palestra, se una persona non ha tempo. Almeno basta andare a piedi, insomma. Sì, una passeggiata giornaliera, per esempio, se il luogo del lavoro non è molto distante e ci possiamo evitare di prendere il mezzo oppure lasciare il mezzo un po' distante dal luogo del lavoro. Il solito trucchetto, il solito consiglio che si dà sempre, che poi magari per una serie di ragioni non si riesce a seguire perché c'è sempre la fretta. Io ho Benedetta da Ravenna, magari a Ravenna si può andare anche in bici. Benedetta, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Sì, in bici, a piedi, noi passiamo la pineta, per tutti i gusti. Benedetta, ci racconti della sua pancia, così racconta un po' quello che sentiamo noi donne. Il problema è proprio questo, è che io noto una forte differenza tra la mattina appena sveglia e la sera, ovvero la mattina è sgonfia, soprattutto se la sera prima ho fatto la mia corsetta di mezz'ora, un'oretta, quello che riesco a fare, e la mattina dopo non dico che è piatta, ma insomma ci andiamo vicino, mentre invece alla sera è gonfia, cioè io ho la pantetta proprio. Proprio alla sera, quando magari Benedetta decide di uscire, di mettere un vestitino un po' attillato, si vede la pancetta. Professor Gasbarrini, un po' di morbidezza ci vuole, ma sì. Benedetta... No, me l'ha detto un po' troppo convinto lei. Ma Benedetta ci racconta appunto questo fastidio. Si presenta alla sera, sbaglia qualche cosa nella sua dieta. Come può cercare di ridurre questa sensazione? È difficile perché spesso la pancetta viene, la pancetta, poi chiamiamolo meteorismo, il gas addominale che determina una sensazione di pancia gonfia, no? Un po' protrudente verso l'esterno, spesso è anche dovuta a una dieta sana, perché paradossalmente i grandi produttori di gas spesso sono le verdure, i legumi, no? E la frutta, e quindi nella realtà dei fatti bisogna trovare un delicato compromesso tra una giusta attività fisica, un'ottima masticazione, una dieta equilibrata con i classici alimenti che sono presenti in natura, no? Carne, pesce, frutta, verdure, acqua, questi sono gli alimenti che compongono la nostra alimentazione ottimale, combinati ai farinacei ovviamente, però anche lì senza mai andare in eccesso, no? Perché ad esempio un grande produttore di gas può essere quella colazione del mattino fatta di latte e cornflakes, è ovvio che se noi eccediamo anche con i farinacei possiamo andare incontro alla produzione di gas, quindi ci vuole un'alimentazione equilibrata, una masticazione ottimale, una buona attività fisica e come sempre, dato che in medio stat virtus, non esagerare con nessuno di questi alimenti e se possibile trovare un buon equilibrio anche con la propria mente, perché come abbiamo detto prima, assenza di fattore di rischio, la testa può anche controllare la motilità e aumentarci questo senso di sensibilità e riduce in qualche modo anche la motilità o aumenta dell'intestino, per cui la testa è molto importante nel controllo di questo sintomo. E alla testa, oltre che alla pancia, fa bene il movimento fisico. Benedetta infatti ci ha detto, al mattino, specie se alla sera riesco a fare la mia mezz'oretta di corsa, mi trovo proprio una pancia bella piatta. Io vorrei aprire il nostro armadietto verde insieme al dottor Marco Temporin, medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva. Buongiorno dottor Temporin, bentornato. Buongiorno Nicoletta, un saluto a tutti. Allora, dottor Temporin, c'è un desiderio quando avvertiamo questo disturbo, sgonfiare la pancia. Lei non è che ci trova qualche tisana magari piacevole che produca questo effetto, mi passi il termine che voi medici non volete tanto usarlo, ma io lo dico lo stesso, sgonfiante? Beh, a parte appunto il termine, sicuramente un decotto adatto per questo tipo di problema e a chi soffre di meteorismo c'è. Tra l'altro è molto buono, per cui sicuramente si può consumare in modo proprio dolce, giusto, gustoso, senza dover tra l'altro aggiungere zuccheri che possono peggiorare tra l'altro il Quindi lei mi sta dando un decotto sgonfiapancia? Un decotto sgonfiapancia. Dai, allora cosa mettiamo? Allora mettiamo dell'anice verde in semi, il finocchio sempre in semi, il cumino e la melissa. Ecco, questi possiamo metterli in parte uguali e sono ottimo, è un ottimo decotto da assumere anche dopo i pasti, perché oltre ad avere un effetto tra virgolette sgonfiante, anche grazie alla presenza della melissa ha un effetto rilassante sulla muscolatura viscerale. Fantastico, si prepara rapidamente questo? Sì, essendo un decotto, quindi va messo, le piante vanno messe ad acqua fredda, si porta ad ebollizione, si spegne, si lascia in infusione per 10 minuti, poi si filtra e si può consumare così, senza assolutamente essere zuccherato. Lo prendo dopo i pasti? Meglio dopo i pasti, perché è anche un po' digestivo. Sai, ho un appuntamento con Polly. Evviva! Dove la porti? Non lo so, in un ristorante dell'East Village. Mi ha lasciato l'indirizzo in segreteria. Perché hai fatto scegliere a Polly il ristorante? Che potevo fare? Mi ha chiamato tipo 7 volte per confermare, poi disdire, poi riconfermare. Perché? Che c'è di male se l'ha scelto lei? Hai la sindrome dell'intestino irritabile, cocco. Se sceglie un ristorante etnico ti toccherà correre al cesso ogni 5 secondi. Oh mio Dio, hai ragione. Tu prega a Dio che non ami l'etnico. Il posto non suonava etnico. Come si chiama? Al Hafez. Allora, Quando hai vissuto in Marocco? Ah, fine anni 90. In questi ultimi anni ho saltellato qua e là in vari posti. Ti senti bene? Perché sembri una fontana con gli zampilli. Sì, no, sto bene. Reagisco sempre così al cibo piccante. Dottor Temporin, potremmo suggerirgli anche a lui lo sgonfiapancia? Anice, finocchio, cumino e melissa. Trovo modo di ripeterlo perché i nostri ascoltatori mi stanno già scrivendo. Nico, ti prego, ripeti gli ingredienti del decotto sgonfiapancia. Allora, sono giusti, vero? Anice, giusti. Finocchio, cumino e melissa, che ha anche un effetto... un cucchiaio per tazza, quindi come dosaggio... E via, è anche buono e soprattutto ha un effetto rilassante sulla muscolatura viscerale. Io ho sentito parlare anche della menta, ma hanno preso in giro? Perché sono piemontese? No, c'è la menta, vero che funziona? Sì, la menta tra l'altro in tintura madre, per chi non ha tempo di preparare il decotto, 20 o 30 gocce dopo i pasti ha un effetto carminativo, toglie l'aria che si sviluppa nello stomaco e nell'intestino. Bisogna però stare attenti per quei soggetti che oltre ad avere problemi di meteorismo soffrono di reflusso di gastrite, in quanto purtroppo la menta... Non va d'accordo. Assolutamente. Senta, dottor Temporin, ma non c'è anche qualcosa da mettere, non lo so, un impacchino sgonfiapancia? Non esiste? Ma diciamo che per chi vuole curare, ma soprattutto vuole sentirsi meglio, può essere utile l'applicazione di un cataplasma d'argilla sull'addome. Questo ha un effetto, definirei assorbente, e soprattutto ha un effetto sfiammante a livello viscerale. Può essere utile, ci vuole un po' più tempo perché va preparato con calma e deve essere utilizzato lontano dai pasti, ovviamente per quanto riguarda poi il pubblico femminile, lontano dal ciclo mestruale e quant'altro. Ecco, dà un ottimo beneficio se applicato 2 ore, in quanto ci si ritrova proprio con la pancia molto sgonfia. Ovviamente questo se non vi sono poi a monte altri problemi che in ogni caso vanno... Certo, noi abbiamo detto prima, insieme al professor Gasbarini e al professor Addolorato, il problema va affrontato seriamente, specie se ci sono, come ha sottolineato il professor Gasbarini, dei cambiamenti, no? Anche, vero professore, oppure del sangue nelle feci, ma in tutti gli altri casi agire sull'alimentazione, sullo stile di vita e cercare di tenere sotto controllo lo stress potrebbe aiutare la nostra pancia a stare meglio. Dottor Temporin, grazie, buona giornata. A lei e a tutti quanti, arrivederci. Professor Gasbarini, io volevo chiederle, il gonfiore della pancia potrebbe essere un modo con cui la mia pancia mi avverta che non tollera alcuni alimenti? La prendo sul serio e come faccio a provarlo? Ah sì, assolutamente sì, anche perché c'è poco da fare, molte volte il gonfiore comincia dopo un pasto e dopo un pasto che ad esempio contiene una grande quantità di verdure o di frutta, quindi non c'è dubbio che in qualche modo il gonfiore è una reazione, chiamiamola così, indesiderata a un alimento. Le cause possono essere innumerevoli, ovviamente. Una delle più comuni, ad esempio, come vi dicevo, è il fatto che vi sia un'eccessiva fermentazione di quello che noi abbiamo mangiato da parte di un eccesso di batteri intestinali. Il colon è pieno di batteri, a volte l'intestino tenue viene contaminato da batteri o, al contrario, il cibo arriva troppo velocemente al colon e questo determina una grande produzione di gas. Un'altra tipica produzione, forse la più comune delle reazioni avverse agli alimenti, delle intolleranze, è l'intolleranza al lattosio. Ci sono persone che perdono un enzima, che si chiama lattasi, sulla superficie dell'intestino, per cui il lattosio determina la produzione di gas. E questo a volte esiste anche per alcuni tipi di frutta, per altri zuccheri. Quindi non c'è dubbio che molte volte la presenza di gas dopo mangiato nasconde una forma di intolleranza a un alimento, che va ovviamente studiata, investigata, e spesso si possono risolvere completamente queste forme di intolleranza. Professor Addolorato, lei ci ha portato a capire la relazione che esiste tra lo stress, l'ansia e questo fastidio che avvertiamo a livello addominale. Sicuramente è una componente importante, e per gli ascoltatori che mi chiedono, se mi scrivono, sì, anch'io ho notato che in momenti particolarmente difficili la mia pancia si lamenta. Che cosa si può fare, professor Addolorato? C'è un'indagine, una ricerca molto interessante che sottolinea il ruolo delle tecniche di rilassamento. Assolutamente sì, a questo proposito è per gli ascoltatori che hanno riportato quanto lei ha detto, sottolineare che, anzi ribadire che lo stile di vita è fondamentale. A parte ridurre la sedentarietà di cui abbiamo già parlato per i motivi che abbiamo detto, è importante incrementare le attività ricreative o cercare comunque di concedersi un po' di tempo per se stessi, magari utilizzando tecniche di rilassamento, proprio per scaricare all'esterno la tensione emotiva che accumuliamo durante il giorno. E di tecniche di rilassamento ce ne sono diverse, dal training autogeno a quant'altro, insomma. Professor Gasbarrini, una in particolare, il Tai Chi, è finito anche in una ricerca, vero? Beh sì, è una ricerca molto interessante. Noi sappiamo che il cosiddetto sindrome dell'intestino del colon irritabile spesso è associata ad altri disturbi in cui sicuramente la psiche ha un grande ruolo, tra esse la fibromialgia, che sono dei disturbi muscolari non ben caratterizzati ma che vi hanno un legame con l'assetto psicologico. Le tecniche di rilassamento e tra le altre alcune tecniche sicuramente possono essere usate. C'è uno studio molto recente, molto bello, molto interessante, che dimostra che una tecnica di rilassamento, in qualche caso un'arte orientale che è il Tai Chi, può avere degli effetti molto simili a quello degli antidepressivi sulla fibromialgia. Quindi non c'è dubbio che psiche e farmaci devono essere integrati da un medico che lavora ovviamente con una grande lucidità e conosce il paziente, ma possono essere utilizzati molto bene anche nella pratica terapeutica. E in linea con noi abbiamo il maestro Guido Bozak, membro della Società Medica di Psicoterapia e Ipnosi ed esperto di medicina psicosomatica. Buongiorno. Buongiorno, maestro. Maestro di Tai Chi, sì. Ruberemo al maestro Bozak una intervista più approfondita che metteremo sul sito. Adesso abbiamo un minuto e io chiederei al maestro Bozak di raccontarci chi si può e perché è importante avvicinarsi al Tai Chi. È un'arte, una danza lenta, una tecnica che richiede tempo, però maestro? Allora, il Tai Chi è una ginnastica dolce, un movimento rigeneratore, una meditazione in movimento, è lentissimo ed è di un'eleganza stupenda. Con un esempio si capisce subito. Fare il Tai Chi è come fare il reset al computer che non funziona più come dovrebbe. Nel reset una forza intelligente superiore al computer lo rimette a posto. Nel Tai Chi una forza intelligente superiore a noi ci rimette a posto. Allora noi faremo una chiacchierata che potete trovare sul nostro sito, sulla pagina di Essere Benessere, insieme al maestro Bozak. Naturalmente le puntate potete sempre riascoltarvelo e troverete anche la ricetta del decotto sgonfia pancia, quindi andate sulla pagina di Essere Benessere. Ringrazio il professor Gasbarrini, il professor Giovanni Addolorato e il maestro Guido Bozak che mi hanno accompagnato in questa puntata. Grazie a loro, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Appuntamento a domani.